Ad alta voce, Chiara Guidi legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. Si sarebbe detto che nella spossata magione dei Buendia ci fosse un tran tran di pace e felicità monocorde per molto tempo, se l'improvvisa morte di Amaranta non avesse provocato un nuovo scandalo. Fu un avvenimento inaspettato. Benché fosse vecchia e in disparte da tutti, la si vedeva ancora vegeta e diritta e con la salute di ferro che aveva sempre avuto. Nessuno conobbe più il suo pensiero dal pomeriggio in cui aveva respinto definitivamente il colonnello Gerineldo Márquez e si era chiusa a piangere. Quando uscì, aveva esaurito tutte le sue lacrime. Non la si vide piangere per la salita al cielo di Remedios, la bella, né per lo sterminio degli Aureliani, né per la morte del colonnello Aureliano Buendía, che era la persona alla quale aveva voluto più bene al mondo, anche se lo aveva mostrato soltanto quando trovarono il suo cadavere sotto il castagno. Lei aiutò a sollevare il corpo. Lo rivestì delle sue insegne di guerriero. Lo rasò, lo pettinò e gli incerò i baffi, molto meglio di quanto lui stesso non faceva nei suoi anni di gloria. Nessuno pensò che ci fosse amore in quell'azione, perché tutti erano abituati alla familiarità di Amaranta coi riti della morte. Fernanda si scandalizzava che non capisse i rapporti del cattolicesimo con la vita, bensì soltanto i suoi rapporti con la morte, come se non fosse una religione ma un depliant di pompe funebri. Amaranta era troppo irretita nel ginepraio dei suoi ricordi per poter capire quelle sottigliezze apologetiche. Era giunta alla vecchiaia con tutte le sue nostalgie pendeste. Quando ascoltava i valzer di Pietro Crespi, sentiva la stessa voglia di piangere che aveva provato nell'adolescenza. Come se il tempo e le esperienze non fossero servite a nulla. I rulli di musica che lei stessa aveva buttato nel mondezzaio, col pretesto che l'umidità li aveva fatti marcire. Continuavano a girare e a battere i martelletti nella sua memoria. Aveva cercato di sommergerli nella passione pantanosa che si era permessa col suo nipote Aureliano Cosè, e cercato di rifugiarsi nella protezione serena e virile del colonnello Gerineldo Márquez, ma non era riuscita a diroccarli nemmeno con l'azione più disperata della sua vecchiaia, quando faceva il bagno al piccolo Cosè Arcadio, 3 anni prima che lo mandassero in seminario, e lo accarezzava. Non come poteva fare una nonna con un nipote, ma come avrebbe fatto una donna con un uomo. Come si raccontava facessero le matrone francesi e come lei avrebbe voluto fare con Pietro Crespi. A 12, a 14 anni, quando lo aveva visto coi suoi calzoni da ballo e con la bacchettina magica che segnava il tempo del metrone. Certe volte le spiaceva di aver lasciato lungo il suo cammino quella scia di miseria e spesso ne aveva tanta rabbia che si pungeva le dita con gli aghi, ma quanto più le faceva male, tanta più rabbia ne aveva e tanto più la amareggiava il fragrante e bacato pometo d'amore che andava trascinando verso la morte. Come il colonnello Aureliano Buendia pensava distinto alla guerra, così Amaranth pensava a Rebecca. Ma mentre suo fratello era riuscito a sterilizzare i ricordi, lei era arrivata soltanto ad arroventarli. L'unica cosa che per anni aveva chiesto a Dio era che non le mandasse il castigo di morire prima di Rebecca. Ogni volta che passava davanti alla sua casa e notava i progressi della distruzione, si compiaceva, pensando che Dio la stava ascoltando. Un pomeriggio, mentre cuciva sotto il porticato, fu assalita dalla certezza che si sarebbe trovata seduta in quel luogo, in quella stessa posizione e sotto quella medesima luce, quando le avrebbero comunicato la notizia della morte di Rebecca. Si sedette ad aspettarla, come chi aspetta una lettera. Ed è vero che in un certo periodo si strappava i bottoni per tornare ad attaccarli, di modo che l'ozio non rendesse più lunga e angosciosa l'attesa. Nessuno si rese conto in casa che Amaranta stava tessendo allora uno stupendo sudario per Rebecca. Più tardi, quando Aureliano Triste raccontò d'averla vista trasformata in una figura da apparizione, con la pelle screpolata e pochi filamenti gialli sul cranio, Amaranta non se ne meravigliò, perché lo spettro descritto era uguale a quello che lei immaginava da molto tempo. Aveva deciso di restaurare il cadavere di Rebecca, di dissimulare con paraffina le devastazioni del volto e di farle una parrucca coi capelli dei santi. Avrebbe fabbricato un bel cadavere col sudario di lino e una bara foderata di felpa con fasce di porpora, e lo avrebbe messo a disposizione dei vermi con tanto di funerali splendidi. Elaborò il piano con tanto odio che rabbrividì all'idea che non ci avrebbe messo meno cura se lo avesse fatto per amore. Ma non si lasciò stordire dalla confusione e invece continuò a perfezionare i particolari così minuziosamente che giunse a essere più che una specialista, una virtuosa nei riti della morte. L'unica cosa di cui non tenne conto nel suo piano fu che, nonostante le suppliche a Dio, sarebbe potuta morire lei prima di Rebecca. Così avvenne, in effetti. Tuttavia, nell'istante finale, Amaranta non si sentì delusa, ma al contrario liberata da ogni amarezza. Perché la morte le concesse il privilegio di annunciarsi a lei con diversi anni di anticipo. La vide in un mezzogiorno infocato, intenta a cucire con lei sul porticato, poco dopo che Mem era partita per il collegio. La riconobbe subito. E non c'era nulla di temibile nella morte, perché era una donna vestita di azzurro, coi capelli lunghi, con un aspetto un po' antiquato e con una certa somiglianza con la Pilar Ternera dell'epoca in cui lei l'aiutava nelle faccende di cucina. Parecchie volte Fernanda fu presente e non la vide, nonostante fosse così reale, così umana, che certe volte chiedeva ad Amaranta il favore di infilarle un ago. La morte non le disse quando doveva morire, né se la sua ora era assegnata prima di quella di Rebecca. Ma invece le ordinò di cominciare a tessere il suo stesso sudario il prossimo 6 di aprile. La autorizzò a farlo complicato e pignolo quanto voleva, ma onestamente, così come aveva fatto quello di Rebecca. E la avvertì che sarebbe morta senza né dolore, né paura, né amarezza la sera del giorno in cui l'avrebbe finito. Cercando di perdere la maggior quantità di tempo possibile, Amaranta si fece venire le filacce di bisso e lei stessa tesse il lenzuolo. Lo fece con tanta cura che solo per quel lavoro ci mise 4 anni. Poi iniziò il ricamo. A mano che si avvicinava al termine inevitabile, le risultava chiaro che soltanto un miracolo le avrebbe permesso di prolungare il lavoro oltre la morte di Rebecca. Ma la stessa concentrazione le procurò la calma di cui aveva bisogno per ammettere l'idea di una sconfitta. Fu allora che capì il circolo vizioso dei pesciolini d'oro del colonnello Aureliano Buendia. Il mondo si ridusse alla superficie della sua pelle e il suo intimo fu esente da ogni amarezza. Le spiacque di non aver avuto quella rivelazione molti anni prima, quando sarebbe stato ancora possibile purificare i ricordi e ricostruire l'universo sotto una luce nuova e rievocare senza rabbrividire l'odore di spico di Pietro Crespi verso sera e riscattare Rebecca dalla sua melma di miseria, non per odio né per amore, bensì per la comprensione senza limite della solitudine. L'astio che notò una sera nelle parole di Meme non la turbò perché la riguardava, ma perché si sentì ripetuta in un'altra adolescenza che sembrava limpida come doveva essere sembrata la sua, e che tuttavia era già corrotta dal rancore. Ma allora era così profonda l'accettazione del proprio destino che non la inquietò nemmeno la certezza d'avere precluse tutte le possibilità di emendamento. Il suo unico scopo fu quello di terminare il sudario. Invece di ritardarlo con inutili preziosismi, come aveva fatto all'inizio, affrettò il lavoro. Una settimana prima calcolò che avrebbe dato l'ultimo punto la sera del 4 febbraio e, senza rivelarle la ragione, suggerì a Meme di anticipare un concerto di clavicembalo che aveva fissato per il giorno dopo, ma lei non le diede retta. Amaranta cercò allora il modo di rimandare di 48 ore il termine della sua opera e pensò perfino che la morte la stava accontentando, perché la sera del 4 febbraio un temporale danneggiò la centrale elettrica. Ma il giorno dopo, alle 8 del mattino, diede l'ultimo punto dell'opera più accurata che nessuna donna avesse mai compiuto e annunciò senza la minima drammaticità che sarebbe morta verso sera. Non soltanto prevenne la famiglia, ma anche tutto il villaggio, perché Amaranta era convinta che si poteva riparare una vita di meschinità con un ultimo favore al mondo. E pensò che non c'era niente di meglio che portare lettere ai morti. La notizia che Amaranta Buendia salpava al crepuscolo portando la posta della morte si sparse in tutta Maconto prima di mezzogiorno, e alle 3 del pomeriggio c'era in salotto una cassa piena di lettere. Chi non volle scrivere diede ad Amaranta dei messaggi verbali che lei annotò in un libretto col nome e la data della morte del destinatario. Non si preoccupi, tranquillizzava i mittenti. La prima cosa che farò arrivando là sarà di chiedere di lui e gli farò la sua commissione. Sembrava una farsa. Amaranta non rivelava sgomento alcuno, nemmeno il più piccolo segno di dolore, e sembrava perfino un po' ringiovanita a causa del dovere compiuto. Era diritta e svelta, come sempre. Se non fosse stato per gli zigomi puntuti e per la mancanza di alcuni denti, sarebbe sembrata molto meno vecchia di quello che era in effetti. Lei stessa dispose che si mettessero le lettere in una cassa incatramata e indicò il modo di collocarla nella tomba per preservarla meglio dall'umidità. In mattinata aveva chiamato un falegname che le prese le misure della bara, in piedi, in salotto, come se fossero per un vestito. Si risvegliò in lei un tale dinamismo nelle ultime ore che Fernanda credette che in realtà si stesse burlando di tutti. Ursula, con l'esperienza che i Buendia non morivano di malattia, non mise in dubbio che Amaranta aveva avuto il presagio della morte, ma in ogni modo la tormentò il timore che, nella confusione di tutte quelle lettere e nell'ansia che arrivassero presto a destinazione, gli allucinati mittenti non aspettassero che fosse morta prima di seppellirla. E così si ostinò a sgombrare la casa, disputando e urlando con gli intrusi, e per le 4 del pomeriggio era riuscita nel suo intento. Per quell'ora Amaranta aveva finito di dividere le sue cose tra i poveri e aveva lasciato sulla severa bara di tavole grezze soltanto la roba e le semplici babbucce di velluto che avrebbe indossato per attendere la morte. Non prese alla leggera quella precauzione, ricordando che quando era morto il colonnello Aureliano Buendia era stato necessario comprargli un paio di scarpe nuove, perché non aveva altro che le pantofole che portava nel laboratorio. Poco prima delle 5, Aureliano II venne a prendere Meme per il concerto. E si meravigliò che la casa fosse preparata per il funerale. Se qualcuno sembrava vivo in quell'ora, era la serena Amaranta, che aveva avuto perfino il tempo di tagliarsi i calli. Aureliano II e Meme si accomiatarono da lei con addì da burla e le promisero che il sabato seguente avrebbero fatto la baldoria della resurrezione. Sollecitato dalle chiacchiere della gente che Amaranta Buendia stava ricevendo lettere destinate ai morti, padre Antonio Isabel arrivò alle 5 col viatico e dovette aspettare più di 15 minuti che la moribonda uscisse dal bagno. Quando la vide apparire con un camicione di mussola e coi capelli sciolti sulle spalle, il decrepito parroco pensò che si doveva trattare di una burla e mandò via il chierichetto. Tuttavia cercò di approfittare dell'occasione per confessare a Amaranta dopo quasi 20 anni di reticenza. Amaranta ribatté semplicemente che non aveva bisogno di alcuna assistenza spirituale perché si sentiva la coscienza a posto. Fernanda si scandalizzò senza curarsi di non farsi sentire. Si chiese ad alta voce che spaventoso peccato poteva aver commesso Amaranta, se preferiva una morte sacrilega alla vergogna di una confessione. Allora Amaranta si sdraiò sul letto e obbligò Ursula a dare pubblica testimonianza della sua verginità. «Che nessuno si faccia delle illusioni», gridò per farsi sentire da Fernanda. «Amaranta Buendía se ne va da questo mondo così come vi è arrivata». Non si alzò più, adagiata sui cuscini, come se fosse davvero ammalata. Annodò le sue lunghe trecce e le arrotolò sulle orecchie, come la morte le aveva detto, che doveva stare nella bara. Poi chiese a Ursula uno specchio. Per la prima volta in più di 40 anni vide il suo volto devastato dall'età e dal martirio. E si meravigliò di quanto fosse simile alla immagine mentale che si era fatta di se stessa. Ursula comprese dal silenzio della stanza che era cominciato a farsi buio. «Saluta Fernanda», supplicò. «Un minuto di riconciliazione a maggior merito di tutta una vita di amicizia». «Ormai non vale la pena», ribatté Amaranta. Memè non poté fare a meno di pensare a lei quando accesero le luci del palco improvvisato e cominciò la seconda parte del programma. A metà del brano qualcuno le sussurrò all'orecchio la notizia e lo spettacolo fu sospeso. Quando arrivò nella casa, Aureliano II dovette aprirsi la strada a spintoni per vedere il cadavere della anziana donzella, brutta e giallastra, con la benda nera sulla mano e avvolta nel sovraccarico sudario. Era esposto nel salotto vicino alla cassa delle lettere. Ursula non si alzò più dopo le 9 notti di Amaranta. Santa Sofia della Piedad si prese cura di lei. Le portava in stanza da mangiare e l'acqua di Bissa perché si lavasse e la teneva al corrente di tutto quanto succedeva a Macondo. Aureliano II andava a trovarla spesso e le portava indumenti che lei posava accanto al letto, insieme alle cose più indispensabili per la vita quotidiana, di modo che in poco tempo si era costruito un mondo a portata di mano. Riuscì a suscitare un grande affetto nella piccola Amaranta Ursula, che era identica a lei e alla quale insegnò a leggere. La sua lucidità, la sua abilità di bastare a se stessa, facevano pensare che fosse naturalmente vinta dal peso del suo secolo di vita. Ma anche se era evidente che la sua vista non era buona, nessuno sospettò mai che fosse completamente cieca. Disponeva in quei giorni di tanto tempo e di tanto silenzio interiore per poter sorvegliare la vita della casa, che fu lei la prima a rendersi conto della taciturna tribolazione di Memè. «Vieni qui», le disse, «ora che siamo sole. Confessa a questa povera vecchia. Che cosa ti succede?» Memè eluse la conversazione con una risata stenta. Ursula non insistette, ma ebbe la definitiva conferma dei suoi sospetti quando si accorse che Memè non veniva più a trovarla. Sapeva che si preparava più presto del solito, che non aveva un attimo di pace mentre aspettava l'ora di uscire, che passava notti intere rigirandosi nel letto della stanza attigua e che la infastidiva anche lo svolazzare di una farfalla. Una volta la sentì dire che andava a trovare Aureliano II e Ursula si meravigliò che Fernanda avesse la fantasia così limitata da non sospettare di nulla quando suo marito venne in casa a chiedere della figlia. Era fin troppo evidente che Meme era coinvolta in faccende misteriose, in convegni urgenti, in ansietà represse, fin da molto prima della sera in cui Fernanda aveva suscitato un parapiglia per averla sorpresa a baciarsi con un uomo nel cinema.